Abbiamo iniziato a spiegare la scorsa volta come è possibile attraverso la Teshuvah riempire, per così dire, un vuoto, una mancanza che è stata creata a causa del non mettere in atto una mitzvah positiva. Abbiamo detto che per una mitzvah negativa cosa succede? Viene a mancare una situazione che se la persona mette in atto la mitzvah negativa, invece di non farla, la fa. Falla il peccato, allora attraverso la Teshuvah cancella, diciamo così, quello che è stato effettuato attraverso il fatto che lui ha fatto e non si è trattenuto dal fare. Ma quando si tratta di una mitzvah positiva, che una persona deve sì mettere in atto e non la mette in atto, e abbiamo spiegato che attraverso queste mitzvot positive che si creano dei canali spirituali, attraverso i quali viene tratto giù dall'alto la luce divina, in questi canali specifici che sono i 248 mitzvot, le 248 mitzvot che vengono chiamate nella Kabbalah le 248 membra del corpo, per così dire, cioè le espressioni attraverso le quali HaKadosh Baruch Hu si manifesta verso il creato. Se una o più di queste non ci sono, allora come si riempie questo vuoto, tornando indietro nel tempo, per così dire, attraverso la Teshuvah? E abbiamo spiegato che attraverso la Teshuvah si apre, si rivela un livello di profondità nel divino, come abbiamo detto, Mimma Amakim, quando viene dalle profondità della persona, porta un'apertura dalle profondità dall'alto. E questa apertura è così grande che riesce a colmare, a riempire tutti questi vuoti eventuali che possono essere stati causati. E lo spiega anche un po' a livello cabalistico. E per fare una metafora invece più legata alla esperienza umana, in maniera più chiara, si potrebbe dire che è come se una persona avesse peccato nei confronti di un'altra persona. Magari non solo un problema, ma varie problematiche che ci sono state. Allora, normalmente cosa dovrebbe fare? Dovrebbe chiedere scusa per la prima cosa, per la seconda cosa, per la terza cosa, e ogni cosa, in ogni situazione, in una maniera relativa a quella situazione specifica, in un contesto specifico, con delle motivazioni specifiche, eccetera. Se dovesse chiedere scusa per cinque cose, ma poi c'è un'altra sesta cosa per la quale non ha chiesto scusa e non ha espresso il proprio rimorso o il sentimento, allora l'altra persona alla fine gli rimarrà questa problematica aperta e non ci sarebbe poi un perdono totale da parte sua nei confronti di chi ha peccato nei suoi confronti. Ma se si dovesse trattare invece di un figlio che pecca nei confronti del proprio genitore, allora se potesse riuscire a far manifestare da parte del genitore l'amore interno che esiste perché in quanto è figlio e in quanto è genitore, allora la persona si riempirebbe di misericordia, di affetto, di amore nei confronti del figlio, e questo riempirebbe tutte le pecche, riempirebbe tutti i vuoti e tutti i peccati sarebbero perdonati in un unico momento, senza entrare nello specifico della problematica. Se il figlio riuscisse in qualche maniera a far risvegliare la misericordia del padre, il suo amore verso di lui, non perché è una brava persona, ma perché è suo figlio e basta. Profondo nel cuore c'è sempre quel legame che non è legato alla logica, è solo perché sono padre e figlio o madre e figlio. Allora, in quel momento in cui si risveglia quell'aspetto del rapporto, è come se i peccati non ci fossero mai stati. È come se le mancanze... Esattamente. Per fare in modo che è una metafora. Se il figlio agisse in maniera di far svegliare le misericordie del padre, magari gli porta dei ricordi o si comporta in una certa maniera o piange, quello che è, e gli dice: papà, accettami per quello che sono, e il padre lo accetta in quanto figlio, è chiaro che riempie tutti i vuoti. Non deve andare adesso nello specifico, e quel giorno è successo così e l'altro giorno è successo così. Si riempie tutto. Perché cosa è successo qui? Non è che si è stato perdonato il peccato, ma è stato aperto il legame, è stato approfondito il rapporto. E automaticamente i peccati sono spariti. Ok? Allora, nella nostra spiegazione qui della Teshuvah, e in particolare del momento di Rosh Hashanah, attraverso ogni cosa specifica ci può essere una mancanza specifica, giusto? Però, quando ci si rivolge ad HaKadosh Baruch Hu dal profondo del cuore, Mimma Amakim, come è scritto nei Salmi, dalle profondità, allora anche in alto si apre l'aspetto profondo del rapporto che copre, riempie tutti i vuoti, per così dire, e diventa una teshuvah generale, accettata in maniera generale. Vezehu, vediamo nel testo l'ultimo paragrafo della pagina 4, Vezehu selachlanu avinu ki chatanu, noi diciamo nella Amidah, perdonaci Padre nostro, avinu, ki chatanu, poiché abbiamo peccato. In teoria questa parola poiché non ha senso in questo contesto. Visto che abbiamo peccato, allora perdonaci. Prima di tutto, se chiediamo perdonaci, è chiaro che abbiamo peccato, perché il perdono è chiesto per il peccato. Ma il motivo per cui ci deve perdonare, perché? Perché abbiamo peccato? Se abbiamo peccato ci dovrebbe punire, non perdonare. Avremmo dovuto dire perdonaci per il fatto che abbiamo peccato, ma non per il... con la motivazione, il perdono è motivato dal peccato, non ha senso, in teoria. Ma secondo quanto invece abbiamo detto prima, achalpi aniskar leel, lefi, secondo quanto abbiamo detto prima, yuvan diventa invece sì comprensibile. Cosa significa? Shelefi shechatanu, visto che abbiamo peccato, però qui si va a un altro significato della parola peccato. In ebraico, chatanu, chet, significa vechassarnu. Chet significa in ebraico anche una mancanza, una carenza di qualcosa. Cosa è venuto a mancare a causa del peccato? Un peccato si chiama chet perché significa innanzitutto una mancanza, come si dice anche in italiano, ho mancato nei tuoi confronti, quindi un peccato. E cosa significa ho mancato? Che qualcosa che ci doveva essere non c'è stato, giusto? Oh, a livello più profondo... mancato significa che attraverso il peccato viene a mancare quella luce che doveva invece venire dall'alto, essere manifestata a causa della mitzvah che ci dovrebbe essere stata, che ci sarebbe stato se non avessi fatto il peccato. Il peccato si intende che non ho fatto la mitzvah. Stiamo parlando della mitzvah positiva, come abbiamo detto prima. Quindi andava messo in atto qualcosa e non è stato messo in atto, significa che manca. Manca non solamente l'atto, ma manca soprattutto quello che sarebbe stato l'effetto dell'atto, la conseguenza, che sarebbe stata una manifestazione della luce di Hashem attraverso quel canale specifico di quella mitzvah. Essendo questo mancato, quindi chassarnu, abbiamo mancato amshachat, il trarre giù, ishtalshelut oren sof baruch hu ben mitzvotah vetorato, nella sua mitzvah, attraverso le mitzvot, attraverso la tua Torah, lekach selachlanu. Per questo ti chiediamo perdonaci. Cosa significa? Come fa a perdonarci, tra virgolette, come funziona la dinamica del perdono quando parliamo in alto di HaKadosh Baruch Hu? Come abbiamo detto. Dehainu, cioè, Selachlanu le orer mekora rachamim ve'aselichot. Selachlanu, stiamo dicendo, vogliamo risvegliare, vorremmo risvegliare in alto la fonte della misericordia e quindi del perdono, ovvero dehainu chi lui rezona elion baruchu shele mala mala misedre ishtalshelut. Stiamo cercando di far sì che si riveli, si manifesti la luce divina come è al di là, molto al di là del seder ishtalshelut, dell'ordine della catena delle sefirot, cioè al di là del limite. Stiamo cercando di risvegliare la luce di HaKadosh Baruch Hu, così come è nel livello, come abbiamo spiegato, che circonda, sovev kol almin, cioè al di là dei limiti specifici della creazione. Quindi una luce infinita, che quando viene manifestata in una maniera di rachamim, di misericordia, riempie tutte le mancanze. Allora, chi chatanu, visto che abbiamo mancato, visto che manca questa luce, ti chiediamo selachlanu, fai una selichah. Una selichah significa un perdono che è causato da un'apertura delle misericordie al di là dei livelli normali, al di là di quello che è considerato limitato nella creazione. Ok? Che dei le malot et kol hachesronot, per poter riempire tutti i vuoti, tutte le mancanze. Vezehu selach lanu, e questo è il senso di quanto noi diciamo selach lanu, perdonaci, shehachazarat ha-ratzon, far tornare il suo volere, cioè il suo benestare, diciamo, verso di noi, il nostro benestare davanti a lui. E no otto ha-ratzon shehaya techila, non è la stessa volontà che lui ci ha messo all'inizio, perché quello è venuto via con il peccato. La sua presenza voluta all'inizio, una volta c'è la verà, il chet, viene a mancare. Questo è il significato della parola chet, la mancanza di questa presenza, di questa illuminazione o di questa manifestazione. Allora, ve'ech yuchzar ve'yumshach, com'è che facciamo riportare e ritornare questa illuminazione? Ela, shachazarot, achzarat ha-ratzon v'aslicha, nimshach mira'ava de'kol ra'avin. Questo ritorno del suo volere arriva da un livello che si chiama Ra'ava de Kol Ra'avin, che in aramaico, ma in ebraico, significa Ratzon Shel Kol Ha-Retzonot, cioè la volontà di tutte le volontà, la fonte della sua volontà che si esprime. Volontà significa la sua espressione verso il mondo. Ok? Hainu ma shelemala mala mi bichinat Ratzon ha-melubash be'chokhmah, significa è molto al di là di quello che è il suo volere che si esprime nella creazione attraverso i canali più limitati, da Chochmah in poi, quindi le 10 sefirot, quello che abbiamo chiamato l'ordine della Ishtalshelut, l'incatenamento che piano piano scende, tra virgolette, verso i mondi, quello è molto più limitato. Quando viene a mancare lì attraverso il peccato, viene a mancare. Per riempire bisogna arrivare a risvegliare un livello che è al di là di questo, che trascende questi limiti e quindi riempie anche quei vuoti. Veseu, e questo è il significato di quanto è scritto alla fine dello stesso Salmo, che abbiamo citato, Shira Ma'alot Mimma'amakim, dalle profondità, è scritto lì che Imecha Haselicha, perdonaci poiché il perdono è con te, chi immecha haselicha, il perdono è con te, letteralmente, le ma antivare, perché tu fossi, perché si abbia timore di te, tivare, ira, dalla parola ira, perché si abbia timore di te, ok? Cosa significa? Chi aslicha hu gilui rezzone ailion shelemala mishtalshelut. Come abbiamo detto, la selicha, il perdone, si ottiene attraverso una manifestazione divina che è al di là della ishtalshelut. E per questo usa il termine immecha, con te, shei bechinat immecha. Cioè, la selicha, chi immecha aselicha. La selicha è con te, significa è un livello che è molto vicino a te. Per arrivare alla selicha si arriva immecha, si arriva con te. Con te significa con te, con Hashem direttamente, non attraverso la Ishtalshelut, che è un'espressione meno aperta della luce divina. Ok? Per questo si usa immecha. La Selicha è vicino a te, cioè trascende, il livello della Selicha trascende il livello della espressione divina normale che si esprime verso la creazione, che è molto più contratta per nascondere la luce divina nella creazione. Invece la selicha è immecha, ukeen ma shekatuv, simile a quanto si spiega riguardo quanto è scritto, sempre nel Teilim, ma in un altro salmo, ki immecha mekor chayim, poiché con te è la fonte della vita. Cosa significa con te è la fonte della vita? Tu sei la fonte della vita. Perché si dice con te? Shemekor kol ha'chaim, perché è la fonte di tutto ciò che vive, tutti i viventi. Vechayei ha'chaim, è la loro vita, cioè le anime, ciò che dà vita ai viventi. Nimshachim mimekorah dekolah, vengono derivate dalla fonte di tutto, le mala miseder ishtalshelut, al di là dell'ordine dell'ishtalshelut. E per questo anche lì è scritto che immecha mekor chaim, la fonte della vita, le anime, la fonte della realtà, la fonte spirituale di ciò che esiste, è immecha, è molto vicino ad Hashem, è al di là dei limiti. Allora, qualora si risvegliasse dalle profondità della nostra anima, si facesse risvegliare dalle profondità superiori, allora a quel punto conclude ubegilui aselicha urezona ilion bevchinazo, quando si rivela, si fa sì che si riveli il perdono e il voler buona volontà divina dall'alto, in questo livello che abbiamo descritto, azai le ma antivare. Allora si arriva alla seconda parte del versetto che dice, poiché in questa maniera si avrà timore di te, cioè שיש קיום לבחינת העירה שממידת מלכותו יתברך. A quel punto potrà anche essere più forte e con un kiyum, cioè con una fermezza e con una permanenza, il sentimento di ira, il sentimento anche di timore nei confronti di Hashem, che è legato al suo malchut, al suo regno. Il timore è più che altro dal livello di malchut. Il re è distante e si ha timore e reverenza del re. Quindi Malchut esprime questo aspetto del nostro rapporto con HaKadosh Baruch Hu, la Yira, il timore. Se non fosse per questo, Shemi Baladegi lui Rezon Elyon, se non fosse per quella rivelazione di cui parlavamo, Ubchinatz Licha, che porta il grande perdono, En Kiyum Legilui Malchuto Itbarach, allora non ci sarebbe la possibilità di andare avanti nel Malchut, cioè, come abbiamo spiegato, nella creazione, nel nostro rapporto con HaKadosh Baruch Hu, le mi she pagam batorah mitzvot, a chi ha peccato nella Torah e nelle mitzvot, il suo legame sarebbe totalmente inesistente se non fosse per questa selicha, se non fosse per questa possibilità di colmare i vuoti, di riempire le mancanze attraverso il risvegliare un livello che è al di là di questi limiti, un livello di espressione divina che è al di là di questi limiti. Quindi per questo il versetto dice, visto che imecha selicha, visto che tu dai il perdono, abbiamo spiegato cosa significa il perdono, allora le manti vare, allora possiamo avere timore di te, possiamo tornare ad avere un rapporto di sudditi e di re, dove noi seguiamo le tue istruzioni e tu esprimi il tuo regno su di noi. In altre parole, si può sanare il rapporto, in parole povere. Quindi, questo tipo di meccanismo, sì, non andrebbe prima a rapportare, no, con le dovute eccezioni su di sé per primi e poi farlo, cioè se io mi comporto, se quello che abbiamo descritto adesso lo faccio prima su di me col prossimo, poi io posso farlo con terza scema. Anche, dipende di che tipo di selicha, di che tipo di perdono stiamo parlando. Se abbiamo mancato nei confronti di altri, allora dobbiamo sicuramente prima sanare il rapporto con gli altri e poi rivolgerci al sanare il rapporto con Hashem, certamente. Cioè, come è scritto nella Halakha di Kippur, no? Praticamente sì, ma anche praticamente essere un pochino misericordioso, perché magari ci sono nei rapporti con gli altri magari si rendono conto che neanche lo fanno apposta, no? Sì. Molto spesso significa che se noi dimostriamo misericordia agli altri, allora Kadosh Baruch Hu dimostra misericordia anche a noi. Certo. Scusa. Sì. Volendo un attimo, non dico schematizzare, ma per me sì. Un più a fuoco. Allora, quando non si fa una mitzvah, sì, viene a mancare qualcosa, sì, la nostra azione dovrebbe essere quella di arrivare a agire in modo tale di trascendere il livello, cioè arrivare più vicini possibile a ricreare il vuoto che della luce di Hashem che è mancata non essendoci stata quella mitzvah. Mm-hmm. E si può fare in che cioè consigliando quale tipo di, tu hai fatto prima l'esempio del padre figlio eccetera, ma in generale sì, attraverso quale idea, quale sforzo, quale qual è il percorso per arrivare a superare questo? Questo è il percorso della Teshuvah. Stiamo parlando di questo. Della Teshuvah che conosciamo, cioè, certamente, qui stiamo spiegando, non stiamo spiegando qualcosa di nuovo che non sapevamo prima. Stiamo spiegando che non sapevamo prima cosa succede all'interno del percorso. All'interno del percorso della Teshuvah, qual è la dinamica che sta avvenendo? Sappiamo già che se si fa Maisia un peccato bisogna fare Teshuvah. Certo. E sappiamo già che se si fa Teshuvah, Kadosh Baruch Hu accetta la Teshuvah. Sì. Quello che stiamo spiegando è qual è la dinamica interna. Abbiamo detto, scusa, se la mitzvah positiva significa che tu non fai quello che doveva essere stato fatto, com'è che la Teshuvah lo aggiusta? Certo. Allora abbiamo spiegato che la Teshuvah deve venire dalle profondità della persona. E quando viene dalle profondità della persona, arriva alla profondità, per così dire, dell'alto, cosa che è come l'apertura di una luce così grande che non cambia quanto è mancato, no, riempie tutto. Però, ristabilisce. Si è fatto anche un esempio del corso d'acqua che viene un po' inaridito e non c'è. Allora, può essere che questo corso d'acqua alimenta vari canali. Allora, non è un problema, cioè, in caso normale, allora sarebbe un problema riempire questo canale, fare arrivare l'acqua a quel canale e a quell'altro canale, perché non essendoci più l'acqua, diventa un problema e devi trovare altre fonti. Nel momento in cui tu riuscissi a scavare sotto, e far riemergere altre, fino ad arrivare alle acque dell'abisso, in modo tale che viene fuori una nuova sorgente, e inizia a riempire il corso d'acqua, allora non devi più preoccuparti del canale specifico. È automatico che si riempiranno tutti i canali. E quindi puoi tornare attraverso questo a un percorso di nuovo normale, dove ti occupi sì di ogni canale specifico e di ogni cosa specifica. Quindi la Teshuvah è una mitzvah, ma è come una super mitzvah, che riesce a mettere a posto, quando è fatta bene, anche le altre mitzvot che sono forse state mancate. Allora con questo concludiamo e proseguiamo, se Dio vuole, la prossima volta.